la propria amarezza. Ho avuto i primi elementi di filosofia alle scuole medie quando un professore ci fece partecipi delle conclusioni di un filosofo il quale diceva che il moto a luogo non esiste. Da allora, visto che ogni cosa è in movimento, pur essendo affascinato dalla ferrea logica del ragionamento di questo filosofo, ho sempre avuto paura della filosofia, perché ho compreso che un'argomentazione che non tenga conto del buon senso arriva a conclusioni che non appartengono a questo mondo. Proprio perché con i nostri ragionamenti si può arrivare ad essere insensati, apprezzo sempre di più la parola di Dio, nella quale trovo riflessioni di umana logica incomparabile. La scrittura tratta di ogni argomento utile a far star bene l'uomo, sia in questa terra che nel mondo futuro. Uno degli aspetti più affascinanti che tratta la parola di Dio è la sofferenza, e poiché tutti soffriamo in mille modi e in mille maniere, non è mai troppo prendere in considerazione un proverbio che fa da spunto alle nostre riflessioni. Il cuore conosce la sua propria amarezza, Proverbi 14 e 10. L'amarezza rappresenta ogni tipo di dolore e di tristezza che affligge l'animo umano e che può identificarsi quando si è offesi, disprezzati, insultati, quando vi sono forti contrarietà, quando si riceve male per bene. Poiché nessuno di noi è un'isola, queste situazioni sono conosciute e forse anche condivise da altri. Perciò spesso abbiamo anche chi ci consola, chi con parole amorevoli ci incoraggia e ci conforta. Ma il proverbio mette in evidenza che nonostante l'incoraggiamento che tu ricevi, nessuno conosce ciò che stai provando. L'amarezza, il dolore, è tuo e rimane tuo. Se ti trovi che il tuo partner ti ha abbandonato, i tuoi familiari, i tuoi amici, anche più intimi, possono condividere con te il tuo dolore. Possono esprimere le più belle frasi di comprensione e di conforto, ma alla fine il separato sei tu. Gli amici possono aiutarti standoti vicino, possono evitare in parte la tua solitudine invitandoti ai loro incontri, ma mentre essi li vivono assieme al loro partner, tu di fatto vivi questi momenti da solo. L'amarezza della solitudine è tua, non può essere condivisa da altri. Tu e solo tu sei solo. Questa è la cruda realtà della vita. A nulla servono le parole e atti di compartecipazione, se non, a volte, che mettere sempre più in evidenza la tua solitudine e il peso di un'amarezza che non può essere condivisa e divisa come quando si ha un peso troppo pesante. Il nostro maledetto romanticismo rovina la nostra esistenza e la realtà della vita. Ne abbiamo un esempio quando leggiamo un romanzo. Un romanzo, se è soprattutto un romanzo d'amore, non può essere apprezzato per lo scopo per il quale è stato scritto se non vi è una certa partecipazione con i personaggi principali. Così, quando leggiamo che la nostra eroina si struggeva il cuore tutto il giorno in attesa del ritorno del suo amato, noi, identificandoci con essa, eventualmente tiriamo un lungo respiro romantico per l'esperienza che sta passando. Come è bello vivere con questi sentimenti, come sarebbe bello vivere con questa atmosfera di attesa. Eppure non vi è nulla di più falso nella realtà della vita. Chi di noi non ha avuto momenti di attesa? Chi di noi non si ricorda il dolore che provoca l'attesa? Ecco l'inganno. Mentre la lettura di un romanzo d'amore, o anche di qualsiasi storia vera, viene fatta in una bella poltrona o in un bel parco dove verde, luce, fiori e il cinguettare di uccellini fanno da cornice, i personaggi stanno vivendo ogni situazione nel contesto della propria amarezza. Mentre per noi il pianto, l'attesa, i litigi narrati nel romanzo sono solo parole idealizzate, per i protagonisti che vivono queste esperienze sono realtà che non lasciano spazio a sentimenti idealistici. Ho letto la storia di due giovani che il giorno dopo essersi sposati lui è andato in guerra. Dal fronte il neosposino ha scritte centinaia di lettere piene d'amore. Finita la guerra, lui ha cercato disperatamente la sua mogliettina, che nel frattempo era scappata segretamente dal paese, per salvarsi la vita. Dopo varie peripezie, i due si sono ritrovati con immensa gioia. Quando ho letto la storia non potevo che immedesimarmi nello sposo, il mio cuore si immedesimava quando scriveva le lettere, vibrava per la sua attesa, il suo dolore e l'amarezza per Non poter vedere colei con la quale aveva avuto un'intimità sessuale solo una sera, ma nella realtà. Tutte queste situazioni provocano sentimenti di dolore ai quali cerco in tutti i modi di sottrarmi. Proprio perché il cuore conosce la propria amarezza, cerco il più possibile di avere un'esistenza reale, scevra di inutili sentimentalismi e idealismi. La sofferenza è sofferenza. Un problema è un problema. Il mio romanticismo non toglie nulla alla realtà della vita. Vi è inoltre un altro infido aspetto nel vivere in un mondo astratto. Prendo come esempio un capolavoro della letteratura di John Steinbeck, il libro dal titolo Furore. Il libro inizia così. Nella regione rossa e in parte della regione grigia dell'Olaoma le ultime piogge erano state benigne e non avevano lasciato profonde incisioni sulla faccia della terra, già tutta solcata di cicatrici. Gli aratri avevano cancellato le superficiali impronte dei rivoletti di scolo. Le ultime piogge avevano fatto rialzare la testa al grano turco e stabilito colonie d'erbacce ed ortiche sulle prode dei fossi, così che il grigio e il rosso cupo cominciavano a scomparire sotto una coltre verdeggiante. Devo confessare il mio debole per la lettura, ma soprattutto per scrittori e scrittrici che hanno un genio particolare sia di contenuto che di capacità narrativa. La lettura di questi testi è ossigeno per il mio cervello, oltre che dare nuovi impulsi alla vita. Eppure, nonostante questo, ci è qualcosa che mi è sempre reso titubante nel leggere i capolavori della letteratura per dedicarmi maggiormente alla lettura della parola di Dio. Non che la parola di Dio, nel suo insieme, sia particolarmente speciale in merito al narrare gli avvenimenti, perché spesso è avara nei particolari, lasciando purtroppo il lettore desideroso di saperne di più, ma perché tralascia i particolari per affrontare la cruda realtà della vita. Non disprezzo certamente la descrizione di una terra solcata da cicatrici o degli aratri che avevano cancellato le superficiali impronte dei rivoletti di scolo, ma questa narrazione, in un periodo quando il cuore conosce la propria amarezza, quando al dolore si aggiunge un animo stanco, valgono ben poco. In quel momento di sofferenza ciò che conta è stare bene, è di risolvere la situazione. Non tanto di fermarsi ad ammirare una terra solcata da cicatrici. Indubbiamente ciò che ci circonda non va disprezzato, anzi deve essere oggetto di riflessione, ma il pericolo di questi particolari, che sono tra l'altro presenti e costanti nella nostra vita, possono trasformarsi in motivi di evasione. Ci è il pericolo, come in un romanzo d'amore, essere affascinati da particolari idealizzati e non vivere il presente con tutti i suoi aspetti amari. La parola di Dio non è romantica, non presenta ragionamenti poetizzati, ma si limita a dire che il cuore conosce la sua propria amarezza. Cioè, quando tocca a te il dolore, non tocca ad un altro. La terra solcata da cicatrici ti lascia immune, l'ammiri compiaciuto. Se non hai problematiche serie, ma quando le cicatrici sono vere e reali nel tuo cuore, allora non hai tempo da ammirare né essere compiaciuto. La realtà non ti permette di evadere. Proprio perché il cuore conosce la sua propria amarezza, dobbiamo prendere sul serio la vita con le sue gioie, ma soprattutto con i suoi dolori. A meno che non ci sia qualcosa di squilibrato, a nessuno piace soffrire, come nessuna cerca la sofferenza per la soddisfazione di soffrire, anche perché la sofferenza non è una soddisfazione. L'uomo è stato programmato per gioire, mentre la sofferenza è entrata in questo mondo come usurpatrice e non facente parte originariamente di questa creazione. La mia lotta in questo mondo dunque sarà quella di evitare il più possibile la sofferenza, ma soprattutto la sofferenza inutile, e quella procurata per ignoranza. Ora, considerare che le piogge fanno rialzare la testa al grano turco è una soddisfazione intellettuale, ma inutile per farmi evitare gli errori che producono sofferenza. Io ho bisogno in questa vita prima di tutto di conoscenza, di saggezza, di come comportarmi per non soffrire inutilmente. Ho bisogno di amore, di amicizia, di compagnia. Con questo non si vuole assolutamente disprezzare poeti, artisti, scrittori. Ma se il virtuoso non è accompagnato dalla cruda realtà della vita, ci troviamo impreparati ad affrontare le amarezze della nostra esistenza. Non a caso grandi scrittori di fama mondiale si sono suicidati, altri hanno tentato l'atto estremo senza riuscirvi. Quando leggo da parte di grandi scrittori descrizioni particolareggiate con abilità di particolari magistralmente presentati, devo confessare il mio profondo diletto. Ma 10 minuti dopo mi ritrovo con gli stessi problemi di prima. Per quanto mi riguarda, non ho bisogno solo di libri con abili descrizioni, ma soprattutto di un libro che mi sia conveniente. E la parola di Dio assolve a tutti e due a queste mie necessità. Soprattutto nei libri poetici noi troviamo espressioni, osservazioni, che sono veramente uniche nella letteratura, ma più che questo. La parola di Dio è oltremodo ricca di insegnamenti atti al benessere di chiunque li osserva. Quando leggiamo nel libro dei Proverbi l'ordine «Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno, e ritirati dal male, questo sarà la salute del tuo corpo», non è un ragionamento puramente teoretico, ma una verità provata da tutti coloro che temono Dio. Il benessere fisico e morale, se non è stato decretato diversamente dal Creatore, è il risultato dell'obbedienza alla regola di Dio. Inutile tergiversare. La sofferenza, sia fisica che morale, è mia, e nessuno può condividerla. Si può partecipare ad altri, ma sono io che devo gustare ogni attimo del mio dolore. E con questa prospettiva che leggo ogni giorno, con l'intenzione di osservarla, la parola di Dio, perché oltre a insegnarmi a leggere i particolari della vita, mi insegna come evitare tanti inopportuni dolori, tra i quali la punizione eterna. Di questo, ne sono certo, l'anima mia non conoscerà mai questa amarezza. Dicembre 2004. Ellero,